Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. La puntata numero 58, Picchi di frequenza, fa la conoscenza con Veronica Lisino, che ci racconta di come il Museo Nazionale della Montagna, con sede a Torino, sta cominciando a lavorare sull'archivio Bonatti, donato qualche mese fa dalla famiglia di Walter Bonatti e che oggi è appunto in via di catalogazione e sistemazione all'interno del museo. Avremo poi la rubrica di Pedagogia della Montagna in compagnia di Paolo Masa, la registrata grazie a Martino Iniziato, e poi le news, la buona musica, gli appuntamenti di Picchi di Frequenza. Forse ricorderete di qualche settimana fa quando parlavamo del nuovo progetto di legge per una rete escursionistica della Lombardia. Ecco, da Mount City, con il titolo Caro Sentiero, quanto mi costi, escono un paio di dati interessanti forniti da Asca News. Il primo, un fondo di 1,2 milioni di euro messi a disposizione, una cifra comunque cospicua per la valorizzazione appunto della rete sentieristica regionale. Dall'altra parte però, dal bollettino 2016 della regione, si stima che i fondi stanziati invece per le migliorie agli impianti sciistici sarebbero di 5.240.000 euro. E insomma, da qui si parte per un ragionamento che trovate su mountcity.it. Abbiamo poi nuovamente qualche news dalla Via Francigena, anche qui accennavamo della nascita del nuovo portale ufficiale della via. Questa volta parliamo invece del profilo del camminatore pellegrino escursionisti, perché l'Associazione Europea delle Vie Francigene ha fatto una sorta di sondaggio tra migliaia, diciamo 12.000 le cartoline credenziali distribuite in compagnia di questo sondaggio, che per fasce di età, mezzi di trasporto, provenienza, periodo, tappe di partenza e durata del cammino, prova a tracciare un profilo di chi sono gli amanti della Francigena. E questo lo pescate invece su Montagna TV. Avevamo invece già annunciato la scorsa settimana diverso rilievo il festival che dal 2 al 4 di giugno si terrà in Bassa Valsusa al Visrabbia di Avigliana. Ecco, la presentazione arriva proprio dal blog di Alpinismo Molotov. Il titolo è All'Universo Mondo, annunciamo il nostro diverso rilievo in festa, e potete leggervi una breve presentazione, ma soprattutto partecipare al crowdfunding che è stato appena lanciato e che serve a provare a coprire un pochino i costi vivi della festa. Potete insomma osservare il programma, quali sono gli ospiti, quali gli appuntamenti. Vi consigliamo di dare un occhio, se potete, di sostenere anche questo crowdfunding. Ci spostiamo invece su valsassinanews.com, anche qui notizia ampiamente annunciata, quando abbiamo polemizzato in più di un'occasione sulle OPA che il CAI di Milano permetteva di fare ad un rifugista nei confronti di altri nel suo territorio, nei rifugi di sua proprietà. La notizia era stata poi smentita da Alex Torricina, dal rifugista del Rifugio Brioschi del Grignone Settentrionale. Oggi arriva invece appunto questa notizia. Ora è ufficiale, lunedì Claudio Trentani lascia la gestione del rifugio Porta, gli subentra Alex Torricini. Domani la cena di addio, la notizia è di qualche giorno fa, quindi la cena si è già tenuta, però è interessante vedere come dopo tutte le smentite effettivamente quanto previsto e annunciato si è effettivamente confermato. È possibile a Milano e Lombardia gestire più rifugi contemporaneamente, come se fossero alberghi, ostelli e non dei luoghi di presidio territoriale. È una scelta che, per quel che vale, non abbiamo condiviso e che ci sembrava giusto raccontare per come così è stata narrata, quantomeno da Valsassina News. Prima di passare al secondo blocco della trasmissione, quello degli ospiti e delle chiacchierate che amiamo fare con qualche ospite, appunto qualche invitato, qualcuno che ha voglia di dialogare con noi di montagne, escursionismo ed alpinismo, un paio di appuntamenti. Il sabato 18 marzo, quindi domani, gita in Val d'Otro, organizzata dall'Ape Milano, appuntamento alle 6:15 al piano terra, ma se volete anche farvi trovare in zona, mettetevi in contatto immediatamente con l'Ape. Mentre lo stesso giorno in serata, alle ore 19, un aperitivo all'Arcipersichello di Cremona, quindi se siete a Cremona e dintorni o venite o spargete la voce, perché presentiamo Sentieri Proletari, la lunga storia dell'Associazione Proletari Escursionisti. Don't speak to me this way. Don't ever let me say. Don't leave me again. Don't leave me again. Oh, you never felt this lost before. And the world is closing doors. I never wanted anything more. Siamo collegati con un ospite molto particolare e speciale quest'oggi per picchi di frequenza, la dottoressa Veronica Lisino del Museo Nazionale della Montagna. L'abbiamo contattata perché sta curando per il museo un progetto molto molto interessante e speciale, vorremmo dire, legato a Walter Bonatti. Buongiorno dottoressa, benvenuta, e di cosa si tratta? Buongiorno a tutti, sì, il progetto è di riordino dell'archivio Bonatti, che è stato donato dagli eredi nell'agosto dello scorso anno, nel 2016. E una volta appunto arrivato tutto il materiale al museo, si tratta di riordinarlo per poterlo qui rendere fruibile e consultabile da tutti, sia appassionati che sia studiosi invece che vogliono continuare a studiare la vita e insomma le imprese del grande alpinista. Al momento siamo nella primissima fase che consiste nell'inventariare tutto quello che c'è. Inventariare significa aprire tutti gli scatoloni che ci sono arrivati con le collezioni di Walter Bonatti, fare una breve descrizione di quello che stiamo vedendo, dare un numero di inventario per poi dare una consistenza. Al momento si stima che il patrimonio sia di 250.000 pezzi, diversissimi tra di loro anche come tipologie di materiale, perché abbiamo sia fotografie di montagna, in particolare diapositive, ma anche stampe, piuttosto che attrezzature alpinistiche, quindi gli abbigliamenti, il casco, i chiodi, gli scarponi, i ramponi, scosse, piuttosto che documenti come corrispondenza varia, tantissima, con moltissime persone e personaggi, quindi sia altri alpinisti ma anche persone normali che gli scrivevano per dimostrargli il proprio affetto, piuttosto che dati lo scritti come conferenze o testi per appunti vari e per appunto presentazioni e libri. E a questo poi anche materiali preparatori per i suoi viaggi, per tutti quelli le viaggi di esplorazione che ha fatto in particolare per epoca, e ritagli stampa, anche questo 60 anni di ritagli stampa, perché è tutta la vita dell'alpinista. Leggevo per documentarmi un po', perché c'è stato un numero di Meridiani Montagne, esatto, molto interessante, dedicato tutto a Bonatti, che il lavoro, oltre ad essere enorme, perché come ci diceva poco fa, 250.000 pezzi sono davvero un numero molto molto significativo, il materiale, mi sembra di aver capito, è arrivato anche in un ordine abbastanza sparso, se ho ben tratto, sì, dall'articolo, e quindi insomma per l'archivista a maggior ragione il lavoro si fa complicato, è corretto? Sì, in parte sì, nel senso che più che altro più che sparso, perché c'è da dire che in realtà è un po' il contrario, nel senso che è molto ordinato per essere un archivio, nel senso che tendenzialmente gli archivi difficilmente arrivano così ordinati, già così sistematizzati. Ecco, no, in realtà è abbastanza ordinato per essere un archivio di tutta una vita, perché aveva già dato un ordine, verosimilmente a posteriori, quindi nel senso che l'ha dato quando molto dopo, nel 2010 probabilmente, insomma, negli ultimi anni, ha voluto riordinare tutto e quindi l'ha già suddiviso, direi abbastanza bene, per temi oppure per date, per datazioni, per cronologia, quindi quello ci aiuta moltissimo. In realtà quello che rende difficile il tutto, effettivamente, che va bene, per quanto ordinato c'è comunque sempre un lavoro di riordino da fare, perché comunque sono a mettere mano tantissimi documenti e lui stesso magari alcune cose le aveva classificate in un modo e poi poco dopo in un altro. E poi fare proprio i collegamenti tra tutti gli elementi che compongono l'archivio, quindi la foto, c'è la fotografia che fa riferimento magari a una conferenza, ma è stata anche pubblicata su un libro, piuttosto che riprende in quella fotografia, si vede lui come era vestito e quindi abbiamo anche l'attrezzatura che si vede in quella foto, e quindi cercare di mettere insieme tutti i tasselli. Però in realtà sì, è abbastanza ordinato, devo essere sincera che ho visto di peggio. Ecco. Ah, meno male. Speriamo che questo vi aiuti anche, come dire, appunto a valorizzarlo al meglio, soprattutto perché essendo presenti davvero una gamma così ampia di tipologie di documenti, dagli strumenti alle cartoline, agli scritti, alle foto, davvero sarà possibile restituire in tutta la sua complessità, insomma, la figura di Bonatti. A questo riguardo il museo sta facendo un bellissimo lavoro, lo segnalo anche agli ascoltatori, di racconto del lavoro che sta appunto richiedendo questo archivio, perché sulla vostra pagina Facebook pubblicate delle pillole in cui fate vedere appunto il lavoro di catalogazione, i documenti, queste piccole pillole che ci permettono di partecipare un po' con voi al lavoro di creazione dell'archivio. Ma avete già un'idea di quale sarà l'obiettivo per quanto riguarda la fruizione, nel senso che resterà solamente un archivio o magari, vuol dire, il museo riuscirà a valorizzare i materiali? No, allora sì, intanto abbiamo pensato di fare queste piccole pillole, queste due di pillole, perché visto che appunto il lavoro è molto lungo e complesso, ci piaceva che nel mentre, visto che adesso l'archivio non è consultabile per forza di cose, la gente potesse comunque vedere quello che nel frattempo si fa, capire un po' il lavoro e allo stesso tempo partecipare alla sorpresa, all'entusiasmo che abbiamo anche noi che ci lavoriamo, perché non sono da sola, c'è anche appunto il mio collega Marco Ridetti e Roberto Mantovani, l'entusiasmo, dicevo, per le cose che si trovano, quindi che può essere la lettera della madre, piuttosto che appunto le prime, un dattilo scritto inedito sul G4 e così via. E questo anche perché appunto il museo al momento prevede di fare delle piccole eventi, esposizioni nel mentre si fa questo lungo lavoro che durerà più o meno sui 4 anni. Proprio per far sì che comunque nel mentre il materiale venga visto e possa essere comunque fruibile un po' da tutti, si intendono fare delle piccole esposizioni, non solo al museo ma anche in altre sedi, in modo legato a degli anniversari alpinistici tendenzialmente, in modo che la gente comunque possa, nel mentre che si lavora all'archivio, continuare a vedere, a scoprire con noi quello che sono i nostri, diciamo, ritrovamenti, per poi arrivare più o meno, insomma, come tempi entro questi 4 anni, a fare invece quello che sarà una grande mostra. Nel mentre si cercherà anche comunque di fare dei progetti invece che non sono solo espositivi, ma anche magari un po' più specifici su determinati materiali, visto che, come dicevo, ci sono anche molte cose inedite che non sono mai state pubblicate da Bonatti, e quindi sarebbe bello invece poter fare dei lavori su questo, quindi magari editare quello che non era stato editato o fare dei lavori specifici di studio e approfondimento su questi materiali. Certo, e allora diciamo che continueremo a seguirvi con grande attenzione, perché poi insomma, la storia e il vissuto di l'esperienza alpinistica e di scopritore, di viaggiatore di Walter Bonatti è stata davvero entusiasmante ed interessante, e questo archivio insomma non farà altro che aumentare ancora di più l'interesse e il lascito di questa figura per il futuro e per gli appassionati di montagna, ma non solo. Io la ringrazio molto del suo racconto, e prima di salutarla ricorderei appunto agli ascoltatori di seguire la pagina Facebook del Museo Nazionale della Montagna, che ricordiamo ha sede a Torino, per rimanere aggiornati e insomma partecipare del vostro lavoro, ma le chiederei anche di raccontarci in due parole il museo e anche come far a visitarlo, gli orari, l'accessibilità, insomma, un piccolo, appunto, una piccola presentazione, di modo che magari in questi mesi, in questi anni possiamo davvero rimanere in contatto. Certo, sì, allora il Museo Nazionale delle Montagne di Torino è intanto ubicato sulla collina di Torino, quindi in un posto particolarmente bello in cui si vede il panorama delle Alpi quando c'è il tempo bello, ed è un museo comunque antichissimo, nel senso che è stato fondato nel 1874 dal Club Alpino Italiano. È un museo sulla montagna, quindi non ha solo la parte alpinistica, più prettamente alpinistica, ma qualsiasi altro elemento che racconti la montagna e la cultura della montagna, quindi dal folklore all'artigianato, ai dipinti, piuttosto che appunto le fotografie, i libri, periodici, cercando nel percorso espositivo, quello permanente, di dare delle suggestioni su quello che è anche la progressione della storia della montagna. Sempre al museo però si può anche comunque consultare invece tutte le nostre collezioni, che sono collezioni anche qui molto variegate, vanno dalle collezioni manifesti di montagna piuttosto che alle foto, così come anche c'è la cineteca, quindi con tutta la parte invece legata alla produzione video, ai materiali, ai film, alla Biblioteca Nazionale del CAI invece, che ha tutti i periodici e i libri. Il museo è aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18 e ospita regolarmente delle mostre temporanee. In questo momento c'è una mostra molto particolare sui foulard di montagna e sul un pittore invece legato alle valli di Lanzo, che è Federico Collino. Legato naturalmente a queste mostre ci sono anche poi delle visite guidate e dei laboratori per bambini e per famiglie. Perfetto, allora grazie davvero al museo e alla dottoressa Veronica Lisino, e con l'impegno davvero magari a risentirci nei prossimi mesi, nei prossimi anni, per aggiornarci sul progetto e magari a vederci di persona nei prossimi mesi o invitando i nostri ascoltatori a fare visita al museo. Buon lavoro, buon lavoro. Dal colle torinese del Museo Nazionale della Montagna ci spostiamo nelle Prealpi Lombarde, anzi per la precisione ci spostiamo nella stessa Brianza di Walter Bonatti, perché torna Paolo Masala e la sua rubrica. Di nuovo collegati con il nostro Paolo per parlare di pedagogia della montagna. Ci eravamo lasciati la scorsa puntata con l'abbigliamento a cipolla e l'introduzione proprio al tema del come vestirsi per andare in montagna. Abbiamo parlato delle calze e saliamo lungo il percorso del corpo e andiamo ai pantaloni. Ciao Paolo e bentrovato. Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, effettivamente oggi parliamo di un argomento che apparentemente parrebbe essere quello di minore importanza, ma che in realtà vedremo che è importantissimo, ossia i pantaloni. Perché? Perché fondamentalmente i pantaloni sono la copertura del nostro motore quando andiamo in montagna, ossia le gambe. Iniziamo a dire che cosa è assolutamente sconsigliato nell'andare appunto per sentieri in montagna, o anche non solo in montagna ma in qualsiasi luogo all'aperto. Apparentemente sembrerà strano, ma è così: bisogna assolutamente evitare i pantaloncini corti anche in estate. Questo perché? Perché fondamentalmente le nostre gambe, appunto, che sono il motore, vanno protette dagli agenti esterni, come possono essere il sole, i venti e quindi le condizioni meteorologiche, perché una scottatura solare sulle gambe può creare seri problemi poi di deambulazioni. Bisogna sicuramente proteggerli da eventuali punture di insetti, perché vespe, tafani, soprattutto in montagna in prossimità degli alpeggi, sono molto frequenti, e soprattutto anche per quanto riguarda la vegetazione. Spesso e volentieri, magari non lo sappiamo, attraversiamo un sentiero che non è stato recentemente pulito e possiamo incappare in piante urticanti, quali appunto ortiche o rovi, spine, cose di questo genere. Dopodiché, quindi, camminando eventualmente con delle piccole ferite, delle scoriazioni, c'è il rischio di infezione, e questo poi crea enormi problemi. Quindi è fondamentale e veramente sconsigliato l'uso dei pantaloncini corti. Bisogna sempre avere dei pantaloni lunghi. Ora vediamo con quali tessuti eventualmente avere questi pantaloni lunghi. Scusa Paolo se ti interrompo. Confermo assolutamente le tue teorie, perché e aggiungo che uno dei temi da tenere sempre in considerazione è quello del cambio repentino di meteo, perché anche a fare un po' troppo gli spavaldi, anche magari nella stagione primavera-estate, si rischia magari invece di trovare un temporale improvviso con un abbassamento repentino della temperatura, e anche un pantalone corto a quel punto può essere molto, molto più dannoso di quanto si pensi, proprio per quello che dicevi poco fa. Esatto, e posso anche portare a conferma di questo, sicuramente in un altro terreno, un terreno alpinistico, ma ho avuto la sfortuna di vedere recuperare da un crepaccio sul Mar de Glace, sul Monte Bianco, persone con i pantaloncini corti, che erano sul ghiacciaio. Detto questo, continuando quindi il discorso, sicuramente dei pantaloni lunghi, quelli che io eviterei sicuramente i jeans, perché sono un tessuto rigido, molto scomodo, che non tengono assolutamente caldo d'inverno, tengono invece molto caldo d'estate, per cui il jeans sicuramente è sconsigliato, anche perché poi se si bagna, si infanga, diventa estremamente pesante. Altrettanto un tessuto da evitare è il velluto, perché una volta era sicuramente un tessuto caldo, i famosi pantaloni da zuava venivano fatti di velluto, ma attualmente con le nuove tecnologie materiali anche il velluto è fondamentalmente sconsigliato, proprio per questo motivo, essendo dei tessuti che sono caldi, ma una volta magari o sudati o più semplicemente bagnati, diventano molto pesanti, di difficile essiccazione. I nuovi pantaloni che vengono fondamentalmente usati, quindi di solito hanno questi tessuti sintetici, fondamentalmente usati e i migliori che io consiglio sono quelli in nylon, in poliaminide, i tessuti esterni quindi sono cosiddetti poliaminide, nylon, by stretch, four way stretch, hanno questi nomi un po' particolari, ma che fondamentalmente hanno la proprietà di essere estremamente resistenti, sicuramente hanno di questi tessuti, sono trattati in modo tale che non subiscano strappi e abrasioni, hanno la facoltà di essere estremamente leggeri per la capacità invece di resistenza che hanno, e hanno la capacità soprattutto di essere facilmente asciugabili, quindi sono traspiranti, permettono una perfetta e facile reazione all'interno del corpo e delle gambe, e hanno appunto la facoltà di essere idrorepellenti, che è una cosa estremamente importante. Chiaro che di fronte a un temporale violento, una pioggia violenta, bisogna avere sicuramente un copri pantalone impermeabile, ma in condizioni di tempo, diciamo così, normali, questi tipi di pantaloni con questo tipo di tessuti sono sicuramente più indicati. Quali elementi devono avere? Io non consiglio particolarmente pantaloni molto tecnici, nel senso che abbiano eventualmente miliardi di tacche e taschine che non servono assolutamente a nulla. L'importante è che abbiano una vestizione molto comoda, che siano molto aderenti comunque al corpo, fondamentali che abbiano almeno 2-3 tasche, fondamentalmente due frontali e una dietro, con una chiusura cerniera per evitare di perdere le cose lungo il sentiero. Trovo particolarmente comodi quelli che hanno praticamente una allacciatura non a bottone in vita, ma semplicemente un elastichino regolabile, perché il bottone spesso crea fastidio nella zona umbilicale. E fondamentalmente anche questi pantaloni sono facilmente riconoscibili anche nei negozi, nel settore tecnico, perché, come dicevamo per le calze, hanno la particolarità di avere, come dire, una forgiatura a secondo delle zone delle gambe diversa, fatta con tessuti diversi, per cui magari zone più resistenti nei confronti del ginocchio, l'interno coscia, oppure a livello posteriore, per cui hanno queste differenze a seconda appunto delle zone di maggiore consumo e abrasione. Questi pantaloni, ripeto, sono molto molto comodi, sono di diverso spessore, quindi anche per quanto riguarda la stagione vi possono essere dei modelli estivi e dei modelli invernali, quelli invernali ovviamente sono molto più pesanti, hanno alcuni anche una leggera felpatura interna, ma eventualmente si può pensare di avere anche un paio di pantaloni, diciamo così, per tutte le stagioni, che eventualmente nella stagione più fredda basta indossare una calzamaglia sottostante, quindi, come dire, la condizione di termoregolazione sicuramente garantita. I prezzi sono decisamente cari, però c'è anche da dire che un paio di pantaloni di questo tipo durano veramente tantissimo tempo e poi eventualmente sono da usare solo in ambito escursionistico. Mediamente questi pantaloni viaggiano da un minimo di 80 euro circa ad un massimo di 170-180 euro. Io direi che mediamente un ottimo paio di pantaloni escursionistici, le marche sono tranquillamente quelle più conosciute sul mercato, viaggiano complessivamente intorno ai 120 euro, quindi io non andrei troppo sotto ma neanche troppo sopra questa spesa. Penso che sia una spesa considerevole perché non è poco, in complesso insomma, anche rispetto a tutti gli altri indumenti che bisogna avere, però veramente la protezione delle gambe è fondamentale quasi quanto quella dei piedi. Quindi io direi che un ottimo acquisto da fare per andare a fare escursionismo è sicuramente anche quello dei pantaloni. Esatto, come dicevamo nelle settimane scorse, meglio spendere meno di ghette, che sono uno strumento, come dire, rimpiazzabile facilmente, ma non sacrificare, come dicevi poco fa tu, appunto, la qualità dei pantaloni che proteggono l'arto che più ci serve nel camminare in montagna. Come sempre direi che sei stato molto completo e molto utile. L'appuntamento con i nostri ascoltatori si rinnova per la prossima settimana, ma ricordiamo anche che ci possono scrivere sul sito amonte.info, sulla pagina Facebook di Picchi di Frequenza, per ripassare le puntate precedenti, per farci domande nuove e per guardare alla stagione estiva. Prossima settimana da che parte saliamo? Continuiamo a risalire in forza e quindi parleremo di magliette e pile, quindi la parte, il busto, diciamo così. Perfetto, anche quella non poco importante, perché insomma anche coprire stomaco e pancia non sempre è indifferente per evitare malanni in montagna col freddo eccetera. Sì, hai ragione, ma scopriremo che alla fine anche il paro orecchie è fondamentale, per cui ogni cosa che diremo poi subiremo anche questa parte fondamentale. Riusciremo a darle importanza. Grazie Paolo e appuntamento la prossima settimana. Grazie a voi, un saluto e buona escursione a tutti e a tutti. Anche questa puntata della numero 58 in compagnia di Picchi di Frequenza volge al termine. Come di consueto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, specialmente qualche nuovo ascoltatore che ci avrà conosciuto, ad esempio a partire dal sito amonte.info, in seconda battuta dalla pagina Facebook Picchi di Frequenza. Se invece volete scriverci, su Twitter all'account @abuzzo3 oppure all'indirizzo mail abo@inventati.org. Noi abbiamo detto un po' tutto, nel senso che i minuti a nostra disposizione sono finiti, ma vi invitiamo come sempre a riscoprire tutto l'archivio libero in streaming e download di Picchi di Frequenza, delle prime quasi 60 puntate appunto su amonte.info, mentre se volete ascoltarci in diretta ci trovate ogni venerdì alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.